Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Sono promo di campionato, prove tecniche di campionato. Poi secondo me cominceremo a capirne qualcosa di più dal 16 di settembre in poi, quando archiviate queste due giornate, chiuso il mercato, archiviata anche la sosta per la nazionale, ci sarà un po' di continuità. Adesso ci sono degli exit poll, appunto, di campionato. A proposito, ho bisogno di un cronista da San Siro. Se qualcuno sta andando allo stadio, ci chiami e ci racconti qual è l'aria intorno a Milan-Sampdoria, unica partita del pomeriggio alle 18, poi tutto il resto del programma questa sera. Intanto saluto e ringrazio il mio amico Marco Ansaldo, penna importante della stampa. Ciao Marco. Ciao, ciao. Ieri sono, a proposito di sensazioni, perché secondo me adesso bisogna parlare di quelle. Ne ho avuto alcune, che la Juventus non perde molto in fondo con Conte dietro quella vetrata a specchi, dire che Asamoah è un super giocatore è una banalità, che prima o poi la Juventus, questa Juventus, scapperà. Allora partiamo dalla prima. Io non sono tanto convinto del fatto che l'assenza di Conte in panchina sia ininfluente, perché lo può essere magari contro il Parma, che con tutto il rispetto non mi è sembrata una gran squadra, spero che abbia più problemi dell'anno scorso, questo può andare. Vorrei vederlo in una situazione di difficoltà concreta, reale, forte, ad esempio in Champions League, e per capire poi quanto si viene a perdere non avendo un allenatore che immediatamente può prendere delle scelte e delle contromisure. E per il resto Asamoah è un ottimo giocatore, io sono stupito del fatto che giochi in quella posizione lì, che giochi bene, perché l'avevo visto giocare nell'Udinese centrale e secondo me lì esprime ancora di più tutta la propria forza, proprio fisica, però ha giocato anche molto bene all'esterno, è stato direi quello che più di tutti è riuscito a creare una differenza e una superiorità numerica nei confronti del Parma, tanto è vero che il gol è nato da una sua invenzione. E poi sì, è probabile che la Juve scappi. Io nei giorni scorsi, quando mi è stato chiesto appunto dal mio giornale di fare una specie di griglia di partenza, ho messo la Juventus al primo posto e penso di non essere sicuramente il solo, non sono stato molto originale, e ho messo per lo scudetto anche la Roma e il Napoli, se riescono a trovare una quadratura direi anche proprio mentale. Senti, ma il Napoli non ti sembra un po' troppo simile a se stesso? Cioè, non può essere che abbia già espresso tutto quello che poteva con questa squadra. Questo è uno dei rischi, però un paio di acquisti interessanti l'hanno fatto in mezzo al campo. Io ho parlato con Sacchi durante l'Europeo e mi parlava benissimo di Insigne, che io ho visto giocare nell'Under 21 un paio di volte, e anche una volta col Pescara mi è sembrato molto bravo. Sì. Non so se a livello di Lavezzi, però insomma anche quando arrivò Lavezzi non si pensava che fosse un fenomeno, e poi alla fine invece è diventato un giocatore importante. Certo. Quindi credo che tutto sommato, per me l'incognita vera del Napoli è il rapporto De Laurentiis Mazzarri, con Mazzarri che mi sembra che sia andato già un po' fuori in certe cose. Ed è in buona compagnia, mi pare, in questo inizio di stagione. Sì, è andato un po' fuori e devo dire che è riuscito a compromettere il possibile, eventuale, un futuribile passaggio alla Juventus un giorno come allenatore, perché alla Juventus piaceva molto, credo che adesso si sia giocato qualche simpatia. Ma il rapporto della Juventus-Mazzarri è sempre stato un rapporto conflittuale, sempre un po' da orlo del Vesuvio. E quindi bisogna anche vedere lì come funzioneranno, ma secondo me lui è oggettivamente un ottimo allenatore, che fa rendere molto bene le sue squadre. La squadra è, secondo me, dignitosa per il campionato al quale assisteremo, che invece è pieno di squadrette, e quindi Napoli potrebbe anche essere una possibile candidata allo scudetto, sempre partiamo dal presupposto che la Juve deve ammazzarsi da sola. Esatto. Non riesco a vedere le due di Milano come scudetto, magari arriveranno seconde, ma non riesco a vederle inserite nella lotta. E devo dire, non da ieri, mi piace molto l'idea della Fiorentina. Bravo. Perché ha un allenatore al quale ho visto fare del bel calcio, ma non quello Orpelli e Cotillon, cioè roba vera. E anche la squadra mi sembra interessante, avesse anche una punta che segna, secondo me potrebbe essere la Fiorentina la squadra sorpresa, come è stato lo solo l'Udinese. Ma magari quella punta arriverà, perché se ne parla molto. Intanto io un'altra convinzione che ho in onda ieri sera è che Jovetic sia un top player più di molti altri presunti. Sì, sicuramente. L'unica grande incognita sua è la salute. E magari anche il coraggio di giocare quando non si sta benissimo. Sì, ci sono quei giocatori che giocano anche se hanno un piede rotto, e ci sono dei giocatori che con un'unghia incarnita chiedono di stare fermi. Io non so a quale delle due categorie appartenga Jovetic. Per il momento mi dicono è più sulla seconda che non sulla prima. Però è veramente un fenomeno, cioè uno di quelli che puoi pensare di presentare su qualunque, davanti a qualunque platea. Certo. Tutta Europa. No, mettere quel secondo gol con quel piccolo attimo di ritardo per prendere la mira per mandare gli avversari fuori posizione, secondo me è stata una cosa meravigliosa quel secondo gol di Jovetic. Sì. E ti dirò che anche il primo, pur con la fortuna della deviazione, tutto questo, però il tipo di giocata, controllo allungato di quel tanto che bastava per girarla verso la porta, cioè ci sono dei giocatori anche magari più celebrati che al controllo la palla finisce 4 metri più avanti e non la vedono più. Certo, tanto se volete partecipare 800 24 00 24 come sempre. Marco, gli arbitri di porta sono una buona idea, se no quella punizione di Pirlo non sarebbe mai stata concessa e saremmo qui a discuterne, a guardare i rallenti. Gli arbitri di porta sono una buona idea, resto sempre comunque dell'idea che meglio degli arbitri di porta sarebbe uno dei meccanismi tipo tennis, pallavolo, eccetera. Bravo. I quali la possibilità dell'errore umano non c'è, perché anche l'arbitro di porta ieri ha visto bene e devo dire che non era facile, no, perché nelle prime riprese televisive era difficile capire cosa era successo. Devo anche dire che subito, e probabilmente io avrei fatto lo stesso al loro posto, i giocatori del Parma si sono lamentati. Secondo me ci fosse stata una bella macchinetta che, come è possibile fare, diceva no, quella palla è entrata, qui lì più nessuno poteva pensare a un errore, a un abbaglio. Quindi invece di star lì a aumentare il numero degli arbitri, che tra l'altro costano pure, forse sarebbe anche economicamente più valido decidersi a fissare una cosa di quel genere. Guarda, mai avrei pensato che ci saremmo trovati un giorno io, te e molti altri colleghi che stimo e rispetto molto d'accordo con Blatter. Non l'avrei mai immaginato. Lo so, purtroppo stiamo invecchiando. Probabilmente stiamo invecchiando. Invecchiando male anche. Un'ultima cosa, Marco, oggi c'è la curiosità di capire cosa possono dire e dare le altre. Non so perché, ma a me intriga l'Inter, sarà per sta storia di Cassano che ieri ha cominciato un po' da pagliaccio, secondo me. Ma Cassano lo prendi così non lo so. Non lo prendi come fanno molti. O non lo prendi come fanno molti. Io, allora, su Cassano l'ho sempre pensato che sia un giocatore con dei colpi, ma che non sia un fuori classe, altrimenti non sarebbe arrivato a 30 anni, ancora con questa etichetta di giocatore dal quale non sappiamo mai bene che cosa attendersi, cioè resta comunque un indefinito, non abbiamo ancora capito a 30 anni se è un fuori classe, un talento sprecato, un buon giocatore con dei colpi, cioè la definizione vera di Cassano nessuno l'ha mai data, tutti l'abbiamo sempre aspettato, e l'ultimo è stato Prandelli come una specie di toccasana, e lui non si è mai dimostrato tale, tanto è vero che io dico, quando uno gira tante squadre e nessuno ti tiene, qualche cosa deve esistere, no? Che è un po' il discorso degli Aquilani e tutta questa gente qua. Ora, non credo che Cassano possa onestamente cambiare molto l'Inter, io lo auguro all'Inter, anche perché mi sembra che abbia bisogno, non mi sembra una squadra che si presenta con le credenziali per lottare subito per lo scudetto. Tra l'altro ho letto alcune formazioni in giro in queste settimane, in questi giorni, vedo alcune formazioni che ancora mettono Zanetti, Cambiasso, tutto quanto, e mi dico, allora che cosa è cambiato? Cioè, qual è la novità? Grazie Marco, buon lavoro. Ok, grazie anche a te, ciao. Un abbraccio, grazie a Marco Ansaldo, 800 24 00 24 per intervenire. Intanto oggi si è anche corso a Brno, meraviglioso Gran Premio della Repubblica Ceca, vinto da Pedrosa. con sorpasso in volata su Lorenzo, Pedrosa che riapre la corsa per il titolo, meno 13 rispetto allo spagnolo, poi Crashlow terzo, Dovizioso, Bradley, Bautista, Rossi settimo come al solito, vabbè in ombra, ma adesso è... Per Rossi si tratta di aspettare la fine di questa agonia. 8-0-0-24-0-0-24, strade, poi di nuovo qui. A tempo di sport. No, vi devo dire, prove tecniche di campionato anche per le domeniche dello sport di Radio 24. Staremo insieme infatti oggi soltanto fino alle 18 e poi da domani vi terrò compagnia tutta la settimana fino a venerdì per quanto mi riguarda. Comincerei con grande piacere a parlare con gli ascoltatori per sentire cosa hanno da dire. 800 24 00 24, ripeto, numero verde, messaggi 349 238 6666. C'è Fabio che subito esagera: per le Insigne può diventare per il Napoli quello che fu Maradona. Giorgio De Luca in redazione, napoletano doc, Maradona Insigne, ma stiamo tranquilli ragazzi, vediamo cosa succede in questa stagione, vediamolo già oggi. Poi proviamo a capire cosa può fare in questa sua prima vera stagione di Serie A e poi diciamo tutto quello che vogliamo. Fabio, guarda caso, proprio dalla provincia di Napoli. Non è lo stesso Fabio, no? No, non sono io. Ah, meno male. Dica. Volevo chiederle, a proposito di questo esperimento degli arbitri di porta, non crede che siano... che portino della confusione all'arbitraggio, alla condotta arbitraria della gara, anche perché poi molte cose l'occhio non riesce proprio a coglierle. Sì. E poi c'è anche da dire che con una macchina si potrebbe evitare anche di appesantire l'organizzazione, insomma. Sì, sono d'accordo. Guardi, Fabio, confusione non credo, anche perché è una formula sperimentata, certamente. Ci deve essere una divisione molto precisa e molto rigorosa dei compiti. Io continuo a pensare, ad esempio, che su determinate decisioni la parola, il fischio, determinati aspetti all'arbitro, ad esempio nel caso del rigore, siano arbitro e guardaline che non devono avere una diminuzione dei loro compiti. Certamente l'arbitro di porta può dare una mano. Ieri è stato subito molto rilevante in Juventus-Parma. La penso come lei e come Marco Ansaldo di qui sopra, sono da questo punto di vista e soltanto da questo punto di vista per l'adozione della tecnologia, perché se si accende una lampadina quando il pallone ha interamente superato la linea di porta evitiamo ogni possibile discussione. Mi sembra anche una soluzione più economica, lo si diceva pure prima, perché gli arbitri costano. Però comunque mi sembra una novità interessante e utile, visto quanto è successo ieri sera in questo campionato. Altra novità interessante, non so quanto utile, quella delle panchine molto lunghe. Qui sono curioso di vedere quanto serviranno, come potranno essere gestite dagli allenatori. Certamente permettono di coinvolgere, visto che li pagano e visto che ne hanno un sacco di giocatori, le squadre di Serie A ne hanno... una baraonda, li pagano tutti, tanto vale portarli in panchina e tenerli coinvolti nel gioco invece di spedirli in tribuna, quando abili e arruolati. Alessandro da Roma. Salve, buonasera a tutti. Buonasera. Volevo tornare sul discorso che stava facendo prima per le pretendenti al titolo. Sì. Sicuramente la Juve dal punto di vista tattico e tecnico è superiore alle altre squadre. Le volevo porre un quesito che io vedo a volte nel mondo sportivo, dei giornalisti soprattutto. Il giornalista dovrebbe, secondo me, stare sopra ogni parte, quindi dovrebbe dare dei giudizi oggettivi più che soggettivi. Non capisco come mai si possano menzionare per pretendenti al titolo squadre come Napoli e Roma e non venga mai menzionata una squadra come la Lazio, che comunque negli ultimi due anni, a prescindere dalle antipatie che il presidente ha nel palazzo, non viene mai presa in considerazione. Direi che questo più che altro è un mio sfogo personale in quanto tifoso della Lazio. Ma possiamo anche dirlo, ma secondo lei la Lazio è da titolo? No, secondo me la Lazio non è assolutamente da titolo, ma come non lo sono neanche Roma e Napoli, ma io non faccio il giornalista sportivo. Però obiettivamente, se vado a vedere i risultati e i valori sul campo, sì, sicuramente. Sì, sì. Io credo che la Lazio abbia fatto due grandi stagioni, soprattutto l'anno scorso abbia fatto una stagione meravigliosa che avrebbe meritato di coronare in un modo diverso. Possiamo mettere chi vogliamo, Alessandro, tra le pretendenti al titolo. Resta la Juventus due spanne sopra le altre. La Roma, secondo me, dire pretendente al titolo è solo un gioco, perché in realtà non la conosciamo. È una squadra nuova, allenata da un allenatore diverso. Il Napoli, torno a ripetere quanto detto prima, non vorrei che fosse arrivato al limite delle sue capacità e possibilità. Si tratta di trovare qualche alternativa in un campionato che mi sembra chiuso. Poi mettiamoci pure la Lazio, mettiamoci la nuova Fiorentina e stiamo sparando a caso e nel mucchio. In realtà questo campionato ha una sola grande favorita, che è la Juventus. Se la Juventus decide di buttare via lo scudetto, vediamo chi c'è sotto la finestra. Potrebbe esserci la Roma, come la Lazio, come il Napoli, ma sono come le milanesi che si sono chiaramente indebolite, soprattutto il Milan. Però mi sembra poco più di un gioco, insomma. Io non credo che la Lazio sia da titolo ed è per questo che non la menziono, tutto qui. Non ho nessuna, tra l'altro, nessuna antipatia personale nei confronti di Lotito o di chiunque altro, glielo assicuro. Massimo, Brescia, 800 24 00 24, il numero verde. Lucio, fuori un paio di mesi per la Juventus e non è detto che questa sia una cattiva notizia, certamente per Lucio, poveretto, che si è infortunato. Tra l'altro sembrava che l'infortunio fosse più grave del previsto, si parlava di 3-4 mesi di assenza, invece pare che i mesi di assenza di Lucio siano solo due. Secondo me è molto meglio la difesa juventina nell'assetto collaudato che quello che abbiamo visto poi anche ieri. C'era Marrone che è stato bravo a inventarsi centrale, però io credo che Barzagli e Bonucci siano la coppia più affidabile per la Juventus. Massimo, Brescia. Sono abbastanza d'accordo con lei. Bene o male, volevo... secondo dei punti di vista, perché se siamo volevo d'accordo dire... non c'è discussione. Volevo dirle questo riguardo l'arbitro di porta, come lo chiamano. Secondo me non è un arbitro di porta, è un arbitro di aria. Io credo che lo scopo di quel tipo di arbitro sia di valutare tutti gli episodi che avvengono in area di rigore, incluso la situazione del gol non gol. In questo senso un sensore riduttivo, perché un sensore chiaramente dal punto di vista tecnologico può soltanto andare a controllare la linea di porta, sì, ma non può controllare tutto quello che succede in aria. Credo che il vero problema, nei prossimi mesi lo valuteremo, sì, sarà la collaborazione. Esatto, non vorrei che ci sia una sovrapposizione di competenze, cioè l'arbitro, quello che dirige la partita, deve avere un aiuto dall'arbitro di porta o dall'arbitro d'area o da come lo vuole chiamare, però non vorrei che si creasse una pericolosa sovrapposizione di competenze. Ma questo dipende, ripeto, quali sono le regole di ingaggio che la FIFA darà. Secondo me dovrebbe essere un arbitro, questo però è soltanto il mio modesto parere, che decide, sì, quello che succede in aria, secondo me. Però poi, da quello che diceva Braskin in un'intervista che ho sentito su Sky, invece sembra che sia un collaboratore come il guardalinee e la decisione finale spetta soltanto all'arbitro principale. Vedremo. Io la leggo in questo modo e onestamente mi è sembrata un'ottima innovazione. Ma è collaudata, cioè non l'abbiamo vista ieri per la prima volta. Ma sono anni che la vediamo nelle coppe europee, dunque l'abbiamo vista agli europei, anche con, si ricorderà, anche con delle imperfezioni umane, no? Perché c'erano stati anche lì degli errori, come ci saranno degli errori. Ieri, senza quell'arbitro di fondo campo sono convinto che il gol di Pirlo mai e poi mai sarebbe stato concesso, anche perché era una situazione veramente molto, molto complicata, molto difficile da dirimere. Era gol, l'abbiamo capito molti replay dopo, l'ha capito istantaneamente l'arbitro che stava lì a fondo campo, e quindi devo dire che l'innovazione, insomma, è utile quanto lo scopriremo vivendo. 800 24 00 24 per il vostro campionato. Cristian da Verona. Sì, pronto? Pronto, ciao, dica. Ciao. Niente, volevo commentare un attimino in quanto hanno, vabbè, a parte che sono tifoso della Juventus, però se devo criticare la mia squadra, ben venga, perché ho visto la partita di ieri sera. Nel primo tempo non avevo visto una Juve veramente eccezionale come l'anno scorso, poi è rinata nel secondo tempo come di solito fa. Ecco. Ecco, se la devo criticare. Vogliamo cercare però nell'uovo, fare criticoni a tutti i costi. Allora possiamo anche aggiungere che sono juventino. No, questo l'ho capito. Possiamo anche aggiungere che Giovinco non mi sembra abbia giocato una grande partita. Possiamo aggiungere, non saprei cos'altro, perché insomma la Juventus ieri ha vinto da grande squadra, cioè un primo tempo tra l'altro su un campo non semplice, giocato così, accelerazione nella ripresa, 2-0 sul Parma, tanti saluti a tutti e alla concorrenza che oggi è chiamata a rispondere. Se poi vogliamo cercare delle altre pecche, faccia pure. Dell'arbitraggio quando ha giocato Juve-Napoli a Pechino, in poche parole. E dobbiamo ringraziare l'arbitro, diciamo, che ci vorrebbero secondo me tutti gli arbitri che sapessero leggere più lingue, in quanto ha letto il labiale di... come si chiama, che non me lo ricordo adesso. Sì, mi fa un favore, lascia stare quella partita lì che mi è sembrata da dimenticare in fretta, anche per gli strascichi che ha lasciato. E ripeto, mi sembra molto pericoloso questo in questa tutto sommato è un assaggio di campionato, no? Due giornate via, poi due settimane di sosta per la nazionale, mercato ancora aperto in maniera, secondo me, sbagliata e incomprensibile. Ci sono già troppe parole intorno a questa stagione. Oggi Sconcerti scriveva su Corriere della Sera: finalmente si torna a giocare a pallone, ma finiranno le polemiche e i veleni. E ricordo un vecchio adagio secondo cui quando il pallone comincia a rotolare sull'erba tutto il resto si zittisce. Su questo qualche dubbio io, come ce l'ha Mario Sconcerti, che pone una serie di domande che mi pongo anch'io e qui diventa un po' difficile trovare una risposta come questa. È stancante questa ostilità continua che non si risolve mai, perché tanto ognuno è disponibile a negare anche l'evidenza. Farà bene all'orgoglio delle fazioni, ma al resto del calcio appare ormai noioso. E poi perché Zeman deve avere sempre un solo argomento? Perché Mazzarri è incontentabile? Perché la Juventus ha sempre ragione, è la più forte, la più ricca, ma non chiede mai niente di meno che di essere vittima, eccetera, eccetera, eccetera. Riccardo, provincia di Arezzo. Mi abbassi la radio per favore, se no non la sento. Pronto, anche io non ho seguito bene la sua domanda, guardi. Quale domanda? Quella mi ha detto su Zeman. No, stavo semplicemente leggendo. Leggendo Sconcerti. La mia domanda è in quanto sul Corriere di oggi. Io essendo tifoso della Fiorentina, sì, a malincuore devo dire che avete detto prima che sarà una sorpresa del campionato, ma purtroppo Firenze non è mai un ambiente vincente. Troppo polemico, troppo. Mi ricordo anche nell'81-82 quando ci fu la famosa disputa con la Juventus e accusarono che la Juventus aveva rubato di qua di là, il conflitto con Della Valle che non compra, cioè a Firenze. Io lo dico da tifoso della Fiorentina. Sperrei di sbagliarmi, perché sorpresa ne sarebbe indietro. Riccardo, la Fiorentina non ovviamente non è una squadra da scudetto. La Fiorentina però è una squadra molto interessante, molto divertente, molto giovane, che ha un grandissimo giocatore come Jovetic, che ha prospettive anche di un acquisto importante, che è un giocatore che le manca come una prima punta da molti gol. Poi se anche, ripeto, se vogliamo fare i pessimisti a tutti i costi o trovare dei vizi, dei difetti, dei peccati come ha provato a fare prima il tifoso juventino, facciamolo pure. Io rimango al fatto che la Fiorentina è una squadra intrigante come poche altre in questo campionato, non da scudetto ma intrigante certamente. Pubblicità, meteo e poi di nuovo qui. A tempo di sport. 800 24 00 24 per intervenire in questa edizione ancora non definitiva di A tempo di sport, come non definitivo è l'avvio del campionato a mercato aperto con queste due giornate serali da giocare. Saluto e ringrazio il direttore Savio Iacobelli. Ciao direttore. Buonasera a voi, buonasera agli amici ascoltatori da calciomercato.com. Che si dice da quelle parti? Che torna Cacà? Come dicevi tu, c'è questa bizzarria che vede scattare il campionato con ancora sei giorni di mercato, perché chiuderà tutto il gong delle ore 19 del 31 di agosto. Come andare ad abitare in una casa in cui mancano ancora le finestre. Ma questa è la grande organizzazione, un pezzo di tetto. Già quest'anno hanno fatto un passo in avanti perché hanno capito che forse si poteva giocare in notturna, altre volte ci hanno propinato alla fine di agosto partite alle ore 12.30 per dividere. Già questo è un passo in avanti, però non si può pretendere di avere tutto. Forse riusciranno a capire che magari cominciare il campionato non l'ultimo weekend di agosto, ma prima, consente anche alle squadre italiane di fare migliori figure in Europa in settembre, ma questo ormai è un discorso che stiamo ripetendo da anni, ma non ci vogliono sentire i signori della Lega di Serie A. Senti, leggo la formazione della difesa del Milan di oggi: De Sciglio, Bonera, Iepes e Antonini. Questi quattro giocheranno tra una mezz'oretta contro la Sampdoria. Si parla di Kakà. Leggo questa difesa senza andare a Tassotti, Baresi, Costa Curte e Maldini. Vado all'anno scorso, Nesta e Thiago Silva là in mezzo, mi sembra un altro film. Certamente un altro film. Vedi, il problema della campagna acquisti e cessioni del Milan 2012 non è il fatto che Berlusconi abbia impresso una svolta austera alle operazioni di mercato, perché d'altra parte Galliani si regola sulla base della disponibilità di budget che la società gli garantisce. Il problema è che per due mesi i tifosi del Milan sono stati presi per il naso a proposito di Thiago Silva e di Ibrahimovic. Io ho rivisto ieri su YouTube con raccapriccio una telefonata di Berlusconi a Sport Italia la sera del 14 di giugno, quando garantiva ai tifosi rossoneri che potevano dormire tranquilli perché né Thiago Silva né tantomeno Ibrahimovic sarebbero stati ceduti. Il 14 di luglio invece sono stati ceduti e purtroppo. Ma secondo te è successo qualcosa in quel periodo o Berlusconi ha semplicemente raccontato una bugia, sapendo di raccontarla? Le bugie sul mercato sono di casa, hanno diritto di cittadinanza. Io rammenterò per esempio Moggi quando negò all'avvocato Gianni Agnelli di avere venduto per 32 miliardi di vecchie lire Christian Vieri all'Atletico Madrid. Tutto ci può stare, però come dicevano gli antichi padri, est modus in rebus, c'è modo e modo. Basta spiegare la situazione ai tifosi, basta parlare con chiarezza, basta dire le cose come stanno. Io sono Silvio Berlusconi, ho portato il Milan a diventare il club più titolato del mondo nell'arco di 26 anni e mezzo di gestione, mi dovete essere riconoscenti e penso che tutti i tifosi del Milan siano molto riconoscenti al loro presidente per quello che ha fatto, però quest'anno io non ho mai visto fare un mercato così al Milan, onestamente. Adesso non so se Galliani abbia in serbo dei botti da qui alle 19 del 31 di agosto, ma la difesa che tu hai snocciolato poc'anzi, con tutto il rispetto, perché si tratta di ottimi giocatori, però credo che i tifosi del Milan nell'arco della gestione berlusconiana fossero abituati a ben altri giocatori e soprattutto ben altra chiarezza di comportamenti, perché anche questa rincorsa a Kakà, che diventa sempre più affannosa e che fa il gioco del Real Madrid e che può dettare le sue condizioni come meglio crede, non è il massimo della vita per il Milan. Noi stiamo parlando della società più titolata al mondo, non del batte la pesca. Certo, mi sembra ormai qualcosa di abbastanza demagogico, come sarebbe in fondo forse anche il ritorno di un giocatore meraviglioso come Kakà. Questo clima da tutti contro tutti. Non si è ancora cominciato a giocare e ieri sento le conferenze stampa e Cassano che da Di Matto si appiglia con Galliani e con Allegri, poi Allegri che risponde, poi c'è Mazzarri contro la Juventus e poi c'è Zeman al solito contro la Juventus, che dicevo prima va bene che si è costruito questo tipo di personaggio, però magari ogni tanto cambiare obiettivo non sarebbe male. E poi ce ne sono degli altri pazzini contro l'Inter e poi non lo so, e poi basta forse, ma basta così. Verrebbe da dire che se questo è il clima, se buongiorno si vede dal mattino, siamo messi male. Sì. Il problema è che il calcio italiano, noi ci siamo, grazie a Dio, imbevuti lo spirito delle Olimpiadi. Il calcio italiano rispetto a ciò che sono state le Olimpiadi vive in un'altra dimensione di rissa continua, di continua polemica, di continua propalazione di veleni, e per forza che non riuscirà mai a colmare il gap, la lacuna enorme che lo separa per esempio dal calcio inglese, per citare il calcio più televisto al mondo e i cui diritti televisivi e commerciali sono venduti nel modo migliore al mondo. Ma perché c'è questo clima di rissa continua che sottintende una scarsa cultura sportiva, perché si riparte, si dovrebbe ripartire, ci si misura sul campo, se la squadra più forte e più brava vince, bene, se la squadra invece meno forte e più debole soccombe alla fine sul campo, deve ovviamente riconoscere il valore dell'avversario. Tutto qui, ma questo spirito sportivo, questa cultura sportiva non viene assimilata, dirò di più, non contribuisce certo il pessimo funzionamento della presunta giustizia sportiva. Sì. Uso questo aggettivo perché in questi giorni abbiamo visto di tutto e di peggio. Di tutto e di peggio, e insomma, compresa l'ineleganza di certe conferenze stampa, compreso il fatto che il vero punto è che questa giustizia sportiva è nata ed è stata strutturata, però non vorrei tornare su argomenti di cui sono settimane che parliamo, è stata strutturata per risolvere problemi diversi, non ha gli strumenti tecnici per risolvere problemi di questo tipo. Hai perfettamente fotografato la situazione, cioè noi abbiamo a che fare con la giustizia sportiva in base alla quale tocca all'incolpato l'onere della prova, che non sta né in cielo né in terra, in base alla quale gli avvocati di un deferito non possono controinterrogare i pentiti, in base alla quale le norme premiali per i pentiti non stanno né in cielo né in terra, perché questi la sfangano con 2 anni di squalifica dopo aver ammesso di avere venduto e taroccato le partite quando dovrebbero essere cacciati dal mondo del calcio perché si occupino di fare altre cose, no? E invece è tutto questo sistema, ma vedi, il problema della giustizia sportiva non è che l'abbiamo scoperto in queste settimane o l'anno scorso quando esplose Scommessopoli o 6 anni fa quando ci fu Calciopoli. Il problema della giustizia sportiva si trascina da anni, ma i presidenti, molti fra coloro che si stracciano le vesti adesso perché sono stati colpiti direttamente, in questi anni della giustizia sportiva se ne sono bellamente infischiati, perché la loro principale preoccupazione è sempre stata quella di ritrovarsi in via Rosellini, sede della Lega di Serie A, e decidere come spartirsi i soldi dei diritti televisivi. Questa è la cosa più importante, perché c'è la questione degli stadi, ma no, arriverà una legge, ci ha messo quasi 5 anni, e c'è il gap con le altre organizzazioni calcistiche europee, c'è una differenza abissale tra chi, come l'Arsenal, come il Manchester United, tanto per fare i nomi, come il Reading, volare basso, può programmare il proprio futuro perché possiede uno stadio di proprietà, e chi invece in Italia, ad eccezione della Juventus, non sa e non può programmare il proprio futuro perché non ha i redditi da stadio. D'accordissimo. È un altro problema importante che però viene sottaciuto. Tanto qual è? La cosa importante è che il signor Murdoch non si stanca di erogare miliardo di euro all'anno in diritti televisivi, perché il giorno in cui si dovesse alzare e dovesse dire: ma perché vi devo dare 1 miliardo di euro e magari invece me ne do un po' di meno? Cosa accade? Lo sappiamo tutti, si litiga ancora di più per meno quattrini, perché non è che si smette di litigare. Se la litigiosità avesse un valore di mercato, magari qualcuno ce l'ha bisogno all'estero perché si annoia, la esportiamo noi. Direttore, un'ultima cosa, proviamo a essere propositivi per chiudere. Cosa vedi di interessante alle spalle di una Juventus per me imprendibile in questo campionato impoverito? Guarda, io sono molto incuriosito dalla Fiorentina di Montella, che mi pare abbia iniziato nel modo migliore. Sono molto incuriosito dall'Inter di Stramaccioni, perché a mio avviso la sua è stata una campagna estiva, non dico affari spenti, ma certamente non ad usa e botti degli anni scorsi, però una campagna mirata, e sono curioso di vedere come Stramaccioni plasmi e plasmerà questa squadra, avendo avuto la possibilità di prenderla in mano ovviamente dall'inizio della preparazione precampionato. Voglio vedere l'Atalanta di Colantuono, che l'anno scorso ha conquistato 52 punti sul campo, totalizzando il record storico di punti. Ci sono, secondo me, dei giovani molto interessanti, perché non parlare della Roma di Zeman? Ecco, a me piace moltissimo il fatto che Zeman sia tornato in Serie A non per polemizzare con la Juventus, ma per farci vedere il suo calcio, alla guida di una Roma che è stata rivoluzionata praticamente per 9 undicesimi, che ha destro, che mi piace moltissimo, un 91 a mio avviso terrà banco nelle cronache del nostro calcio per i prossimi 10 anni, e che ha una concezione di gioco trasmessa dal tecnico boemo, che è lo spettacolo, che è il divertimento, che è l'attacco. Questo mi aspetto dalla Roma di Zeman, e spero che lo possa offrire non soltanto il tifosi giallorossi, ma a tutti noi che amiamo il calcio. Grazie direttore, alla prossima. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a Savio Jacobelli. Grazie. Mirko, provincia di Forlì, poi Giovanni da Roma, Carlo, provincia di Cagliari, 800240024, tra poco ci sono informazioni per chi viaggia e poi gran finale solo per gli ascoltatori. Mirko, dica. Ciao, buonasera. Ciao. Dimmi tutto. Ciao, guarda, io sono adottato qui in provincia di Forlì Cesena, comunque sono di Roma. Sì. Mi allaccio un attimino così per lo spunto che avete detto tu, avete appena finito di parlare sulla cultura sportiva. Io credo che non si tratti di cultura sportiva, in realtà è proprio di cultura italiana. Sì, sono d'accordo. Cioè qui è proprio una cultura. Io mi ricordo, io sono giovane, comunque ho 33 anni, non sono più un ragazzo, però non mi sento nemmeno tanto grande, ecco. Guarda, sono giovane dentro, Mirko, ecco. Mirko, il calcio è uno specchio che ci riflette perfettamente. Sì, no, non sai perché? Perché io mi ricordo quando andavo a scuola io, no? Se la maestra tipo mi strillava, la professoressa, o qualsiasi cosa, io mi ricordo che non è che erano bastonate a casa, però insomma mia mamma... Adesso, per dire, la cultura italiana è che invece adesso è la professoressa che ce l'ha contro il figlio, per dire, no, è sempre una cosa che c'è sempre qualcosa di losco, qualcuno che ha sempre qualcosa contro di te o contro qualcosa di tuo, ecco. Quindi non è che la cultura sportiva è tanto diversa dalla nostra cultura, ora è proprio la nostra mentalità da italiani, sì. Non è che c'è sempre qualcuno che fa sempre qualcosa contro di noi o ce l'ha con noi, ecco. Niente, io ho chiamato perché prima, quando appena sono salito in macchina, ho sentito che discutevate un attimino delle pretendenti, ecco, nello scudetto. La Juve, ecco, è la Juve. Già l'altro anno, quando ancora l'Inter e il Milan, diciamo, erano tra virgolette superpotenze, si è distinta con anche la possibilità per le altre, se avessero fatto un campionato un po' più decente, di arrivare in alto. Io mi ricordo che quando mancavano solo 10 partite, comunque non era ancora tutto scritto, ecco, ci poteva essere ancora qualche ribaltone. Quindi alla fine il campionato dell'anno scorso non è stato un campionato eccezionale dove tu puoi dire la Juve è stata... Questo è sicuro, però il livello della concorrenza, soprattutto il livello del Milan, era diverso, perché l'anno scorso ci trovavamo tutti d'accordo sul fatto che dal punto di vista dell'organico il Milan avesse qualcosa in più e che era favorito per lo scudetto arrivava dallo scudetto, aveva un giocatore che capace da solo di vincere gli scudetti, che quest'anno è andato via, insomma c'erano tante componenti. La Juventus è stata bravissima a mettersi sotto quella finestra, il Milan ha fatto volare il suo scudetto insieme alla sua presunzione, insieme ai suoi problemi, e la Juventus se l'è preso con tutti i meriti del mondo. Questa è la storia del campionato scorso. Mirko, grazie, devo salutarti perché c'è il traffico e poi ci sono altri ascoltatori. A tempo di sport. Io per la cronaca, meno di un quarto d'ora dall'inizio di Milan-Sampdoria, vi do le formazioni che sono ufficiali. Abbiati per il Milan, naturalmente, Abbiati, De Sciglio, Bonera, Iepes e Antonini, questa è la linea difensiva che ho già citato prima. Flamini, Montolivo, Nocerino a centrocampo, Boateng trequartista davanti ad El Shaarawy, anzi dietro ad El Shaarawy, e Robinho con Pazzini che va in panchina, pronto all'impiego. Sampdoria con Romero, Berardi, Gastaldello, Rossini, Costo, Biang, Tissone, Poli, Estigarribia, Eder e Krstičić. Maxi Lopez ha qualche problema alla schiena, vale lo stesso discorso fatto per Pazzini. Matteo, provincia di Ancona. Sì, buonasera e complimenti. Buonasera, grazie per la trasmissione. Io ecco una considerazione molto veloce sulle questioni della giustizia sportiva e su Antonio Conte, ecco, sì. In particolare sulla conferenza stampa che ha fatto molto discutere. Senta, insomma, mi dica una cosa, secondo lei quanto conta o quanto potrà contare quel vetro oscurato dietro il quale Conte vivrà la sua intera stagione? Io sono convinto non moltissimo, perché non sono così convinto che quella di Conte della Juventus è una storia, una sinergia particolare, c'è energia tra la squadra e il suo allenatore, però sono convinto che in fondo non costerà punti, non costerà molto. Io credo che esistano due tipi di allenatori, ci sono gli allenatori insomma che durante la settimana lavorano, poi ecco magari la domenica in panchina stanno più tranquilli, invece c'è chi magari ecco dà il 100% proprio in panchina, ecco, suggerendo movimenti in tempo reale insomma e motivando nel migliore dei modi i propri giocatori. Io purtroppo, essendo juventino, credo che Conte faccia parte di questa seconda categoria e quindi penso ecco che in termini di punti qualcosa ne potrebbe risentire, ecco, la Juventus. Comunque, a parte questo, ecco, una considerazione velocissima, appunto, dicevo, sul processo sportivo e sulla conferenza stampa di Conte, che è stata anche molto criticata, insomma, lo stile Juve, esibizione dei muscoli, eccetera. Io però mi chiedo solamente perché le stesse considerazioni non siano state fatte riguardo a un giudice, Sanduli, che si permette di motivare in diretta telefonica insomma una sentenza dicendo tra virgolette insomma gli è andata anche bene, ecco, io penso che sicuramente se i modi di Conte della Juventus sono stati sbagliati in certe situazioni, anche questa esternazione non penso che sia stata molto elegante, se non addirittura al di fuori di quelle che sono le regole. Sì, mi pare che ci siano, mi pare però avrà letto da qualche parte che ci siano dei problemi per Sandulli per queste esternazioni pubbliche. È il minimo, penso che sia il minimo. Beh, insomma, ecco. Minimo massimo non saprei, però questa è la cronaca, quindi quelle esternazioni non credo che cadranno nel vuoto dal punto di vista delle conseguenze, pur con il massimo rispetto per un professionista come Sandulli. Da questo punto di vista sono abbastanza d'accordo con lei. Carlo, provincia di Cagliari. Carlo? Non c'è? Allora Severino da Vicenza. Pronto? Eccomo. Dica, buongiorno. Senta, come sta? Allora, buongiorno a lei. Senta, io premetto che sono un tifoso juventino, di conseguenza potrei anche parlare con spirito di parte, però ormai mi sta dando fastidio e stufa Zema con questa continua polemica nei riguardi della Juventus. Ormai? Da adesso? No, è un sacco di tempo che ormai sta stancando. Comunque sì. Io sono convinto che se Zema non avesse strumentalizzato questa questione, ormai di Zema non si ricorderebbe più nessuno. E lui ci marcia sul fatto di averla contro la Juventus, perché se no, allora, chi è che si ricorderebbe di Zeman? Io, insomma, Zeman è un allenatore molto particolare. Lei è un po' estremo nella sua posizione. Io però continuo a pensare, l'ho detto anche ieri, l'ho detto un miliardo di volte, che Zeman alla fine si sia costruito un po' il suo personaggio intorno a questa crociata, no? Principalmente contro la Juventus, a questa crociata per un calcio diverso, per un calcio pulito. Poi guarda caso il Sasso continua a finire nello stesso stagno, quindi Zeman è stato da questo punto di vista anche bravo, furbo a costruirsi questo personaggio che lo ha tenuto in voga e a galla. Premetto che il calcio di Zeman è quanto di più bello si possa vedere quando funziona, e se funziona in Italia, però certamente si è sempre tenuto a galla con questa crociata ormai molto lunga nei confronti della Juventus e delle sue abitudini e del suo modo di essere. Mauro, provincia di Alessandria. Buongiorno. Grazie per aver richiamato. Grazie a lei. Buongiorno. Guarda, anch'io volevo parlare delle conferenze stampa. Ma sì, volevo dire anche una cosa di quello che ha detto Conte, ma in generale voi siete un'ottima trasmissione, fantastica, è sopra la media, sono anni che vi seguiamo, quindi non sono il primo né l'ultimo che lo dice. Ma questi signori mi sembra che si stiano adeguando sempre di più al clima da trasmissione di terzo livello, manco di secondo livello. Parlo di Cassano, che non lo scopo. Siamo stufi di sentire Cassano parlare, almeno io non ne posso più. Cioè, ogni squadra che cambia dice le stesse cose, quando se ne va via dice le stesse cose quando se n'è andato via. Cioè, basta, tarpatelo, guardi, si tratta soltanto di come si pigliano queste cose qui. Io le piglierei un po' più sul ridere, ma per tutti quanti, anche per le vene gonfie del collo di Conte. Tutto sommato A me un po' divertono queste conferenze stampa surreali, devo dire la verità. Qualche volta le preferisco a quelle che mi dicono abbiamo preparato bene la partita, l'avversario di domani è difficile. Ecco, quelle le trovo pressoché inutili. Se salta fuori qualcuno che ci fa, se lo prendiamo nel giusto spirito, divertire, ma perché no? No? Certo, su Conte posso dire una cosa? Mi scusi. Anche due. Velocissimo. Io non sono juventino, ma non ho nulla contro la Juve, nulla contro Conte. Cioè, secondo me, attualmente campagne contro la Juve l'hanno viste perché Bonucci e Pepe li ho visti assolti e probabilmente giustamente assolti. E anche Conte, o non ha veramente fatto quello che si è detto e quindi giustamente non doveva beccare neanche mezza giornata di squalifica, a parte che non influirà proprio niente sulla questione punti, secondo me, ma oppure se è vero, per me 10 mesi sono pochissimi. Tutto sta a vedere se è vero o non è vero. Cinque mesi, 10 mesi. Cioè. Beh, si parla di omessa denuncia, Secondo me è gravissimo. I fondamenti dello sport vanno tutti a farsi benedire. Guardi, se Conte è entrato in quello spogliatoio e ha detto le frasi che il pentito Carobbio gli imputa, cosa che io francamente, ripeto, faccio fatica a credere, davanti a quella sterminata platea di giocatori addetti ai lavori del Siena, è un altro discorso. Si parla di omessa denuncia sulla base di un processo sportivo inadeguato, è stato giudicato colpevole, si becca 10 mesi dietro quel vetro oscurato. Mi sembra che la storia sia il caso di chiuderla qui, anche se certamente non la chiuderemo qui. Lorenzo, provincia di Pisa. Lorenzo, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo intervenire su un problema. Io sono un tifoso di Vela, se ben chiaro. Sì. Però tutta questa follia nel confronto della Fiorentina, che ha giocato contro l'Udinese in Borsia di riserve, non mi sembra ancora buono. Ma perché siete Lorenzo, ma perché siete così pessimisti? Cioè, la Fiorentina sembra una squadra interessante, se poi lo sarà davvero lo scopriremo vivendo, ma perché non essere un pochino fiduciosi? Non capisco. Ho 62 anni, se sono fiducioso, perché sono sempre più fiducioso, per cui sono fiducioso. Oggi non capisco, cioè, allora ieri la Fiorentina vince 2-0 con l'Udinese, che non è l'ultima arrivata, è vero che aveva la testa al Braga, che giustamente Guidolini ha fatto i suoi conti con la rotazione dei giocatori eccetera eccetera, doppietta di Jovetic, un secondo gol fantastico, una squadra interessante a ricerca di un altro giocatore di mercato, e i tifosi della Fiorentina chiamano e criticano e dicono ma non sarei così ottimista. La Juventus vince come deve vincere una grande squadra con il Parma e non va bene nemmeno così agli juventini. Insomma, non siete mai contenti di nulla. Ernesto da Napoli, lei almeno è contento? Salve, buonasera, complimenti per il programma. Grazie. Innanzitutto sono un tifoso del Napoli, però vanno dette alcune cose. Innanzitutto, complimenti alla Juve, per carità, per il suo gioco. Io sono uno sportivo, ammiro la Juve. Però onestamente io credo che certi comportamenti gli arbitri debbano un pochino metterli da parte, perché anche ieri sera nella sua vittoria non ha bisogno di certi aiuti. A parte il rigore, che abbiamo visto un errore clamoroso del guardialine, vanno dette certe cose. Sì. E anche di Vidal, per la verità. C'è stato il rigore, l'ha sbagliato, il portiere si è beccato un'ammonizione. Però un altro paio di cose, ci sono stati un altro paio di episodi. A parte il gol, non gol, vabbè, l'avrà vista dentro il giudice di porta, vabbè, ha visto dentro era gol. Però ho visto un fallo di mano di Barzagli che si è portato il pallone avanti, volontario, punizione, una volta si ammoniva e non c'è stata nessuna ammonizione, e sul finale c'è stato Matri che è stato richiamato sul fuorigioco, ha mandato a quel paese il guardialine, tutto ok, tutto bene, andiamo avanti. E soltanto per questo, la Juve non ha bisogno di certi aiuti perché è fortissima, è una grande squadra. E anche gli arbitri non devono avere questo comportamento nei loro riguardi. Adesso ci sono 6 persone in campo per dare un giudizio, ed è assurdo che si sbagliano, si commettano degli errori così. E un'altra cosa, io credo che i giudici di porta magari possono avere un'influenza maggiore rispetto all'arbitro se l'arbitro non è una grande personalità. Lo scopriremo vivendo, caro Ernesto. Adesso chiudiamo il programma. Signore e signori, come avete appena sentito, il campionato è davvero cominciato, anche se ancora nulla abbiamo visto. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ci sentiamo domani qui alle 2 per A Tempo di Sport. Ciao a tutti.